rivincita delle bionde, oltre la cultura dello stereotipo. Sono le 13 in punto, buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti alla seconda puntata della rivincita delle bionde. Ai microfoni Erika Verdecchi e Carlotta Calarese. E buongiorno Carlotta, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Allora, è ora di pranzo, quindi molti di voi staranno staccando dal lavoro, staranno tornando a casa per mangiare. E per voi abbiamo preparato oggi una puntata ricchissima, sostanziosa, direi quasi proteica, una bistecca. Sì, ma basta con queste metafore culinarie che mi sta avendo l'acquolina in bocca. Dopotutto sono le 13, quindi. Ma dai, andiamo dritti al sodo allora. E nella scorsa puntata vi abbiamo catapultato, o come direbbe Carlotta, capultato nell'Ottocento, negli ultimi anni del 1800, alla scoperta dell'arte e della biografia di Vincent van Gogh. Oggi invece vi riportiamo ai giorni nostri, nel presente, e facciamo una piccola incursione in Oriente. Infatti la protagonista della puntata sarà Kimia Gurbani, ovvero una cantante, una musicista iraniana. Ma non solo, a fine di ogni puntata, quindi anche oggi, sarà per voi presente la chicca del giorno. Ma potete anche contattarci tramite WhatsApp o SMS al numero 333-180-9494. Sì, potete dirci tutto quello che volete, anche insultarci. No, questo no, davvero. Se volete correggerci su qualcosa. Comunque adesso facciamo un breve stacco musicale e ritorniamo fra pochissimo. Just Ed eccoci tornati sulla Rivincita delle Bionde, la pausa pranzo del lunedì. Ai microfoni le biondissime Erika, che sono io, e Carlotta, le vostre bionde preferite. Abbiamo appena ascoltato Marò Rudy Bedon, spero di averlo pronunciato correttamente. Dato che è persiano. Spero che Kimia non si arrabbi se pronunciamo male i suoi brani. Ma... Esatto, perdonaci Kimia. E appunto di Kimia Gorbani, che abbiamo detto è la protagonista di questa puntata. Tra l'altro Kimia vive a Bologna, giusto Carlotta? Sì, in realtà ha vissuto a Bologna, ma da qualche mese si è trasferita a Ferrara. Tra l'altro lei ha partecipato anche al Bologna Jazz Festival al Binario 69, se non ricordo male, il 12 novembre. Ma il 12 novembre tu lo conoscevi già il Binario 69? No, ancora no, ma l'avrei scoperto dopo un po'. Perché dovete sapere che Binario 69 è la seconda casa di Carlotta, cioè lei praticamente esce la mattina, va all'università, va in radio, poi va al Binario. Sì, è un posto molto accogliente. Comunque, bando alle ciance, parliamo un po' della vita di Kimia. Kimia nasce a Teheran, in Iran, matura la passione per la musica sin da quando era piccola, più o meno a 9 anni, dopodiché per mantenersi e rivendicare la propria appunto libertà diventa un artista di strada e dopo si iscrive al conservatorio a circa 22 anni e decide di trasferirsi in Italia ottenendo il visto, appunto una borsa di studio. E noi siamo riuscite questa mattina a contattare Kimia e le abbiamo fatto una breve intervista, perciò per approfondire la sua vita ascoltiamo direttamente le sue parole. Come sei arrivata a Bologna? Allora, io quando ero in Teheran sono andato in ambasciata italiana di Teheran, ho chiesto visto e studenti per venire e studiare la musica qua, ho fatto un po' scuola italiana in Teheran, però pochissimo, poi ho preso visto e studenti e sono arrivato a Bologna. È stato difficile il viaggio? Sono venuto con pochi soldi. Dall'inizio era difficile, però poi ho iscritto in conservatorio, ho preso borse studio, poi piano piano ho sistemato. Come hai iniziato a fare musica? Fare musica quando ero piccolo mi piaceva tanto fare la musica, ho cominciato con una tastiera, però non sono riuscito ad andare a scuola di musica perché quando ero piccola non c'era scuola musica per le ragazze, c'era solo una in Teheran capitale e noi eravamo fuori di Teheran quasi un'oretta e poi non potevo andare e c'era tutto in Iran, c'era solo una, per quello non sono riuscita a continuare veramente bene la musica. Ho fatto un po' da me, da qualcuno che conosceva la musica, poi quando sono diventato grande mi sono iscritto in conservatorio di Teheran, però non era una cosa abbastanza professionale questo conservatorio. E poi io amavo cantare, però non c'era tante possibilità per cantare, c'erano lezioni private, però erano abbastanza costosi. Poi ho cominciato a suonare in strada come prima donna che ha deciso a suonare in strada in Iran. Ho cominciato a suonare in strada, a cantare in strada per fare street music, diciamo, per cambiare un po', per invitare altre donne per venire, però poi nessuno non ha accompagnato, poi ho lasciato e sono venuto qua a continuare qua la musica. بزرگی مثل شب خود مهتاب شب تنها باید راه دوری را بره تا دم در بازه مثل شب گود و بزرگی مثل شب مثل شب گود و بزرگی مثل شب Le 13 e 12 sui nostri 103.1 di Radio Città Fucico, la rivincita delle bionde con Erika, che sono io, e Carlotta. Se volete, comunque, come abbiamo anticipato, potete contattarci tramite il numero 333-180-9494 in diretta, mandandoci degli sms. O WhatsApp anche. Esatto, oppure su WhatsApp. La canzone che abbiamo appena ascoltato si intitola Manoto de Raki Oborun ed è sempre di Kimia Gorbani, la protagonista della nostra puntata. E parliamo un po' del genere musicale di Kimia. Lei si ispira all'ampio genere che si chiama world music, ovvero la musica etnica fondamentalmente. Infatti si ispira molto alle sonorità della musica persiana, quindi dell'Iran, che è il suo paese di origine, ma anche comunque al rock e al jazz internazionale. Sì, tipo il chitarrista Eric Clapton è il suo preferito. Esatto. Ma lei è anche una esperta appassionata di street music, ovvero musica di strada. E alla street music è collegato un episodio che lei ci ha raccontato che ci ha molto colpite, sì. Ovvero quando non si era ancora trasferita in Italia, quindi abitava ancora a Teheran, nella capitale dell'Iran, è stata arrestata perché si è esibita cantando e suonando in strada. Sì, lei è diventata un'artista di strada e, ripeto, per l'Iran questa è una cosa assolutamente indicibile, perché esiste una legge che vieta alle donne di cantare in pubblico, perché una donna che canta da sola in pubblico viene considerata erotica, quindi è assolutamente vietato. Infatti allora è concesso soltanto imparare a suonare strumenti o addirittura cantare in coro solo per le donne. Adesso ascolteremo la terza parte di intervista in cui lei ci racconta proprio il valore sociale della sua musica. Ascoltiamo le sue parole. Come definiresti il tuo genere musicale? Diciamo world music. Che artisti ti hanno influenzata maggiormente? Quello che amo di più è Philip Glass. Eric Clapton, Eric Satie mi piacciono, anche poi artisti iraniani come Shajarian, un maestro, grande maestro. Perché hai deciso di cantare in persiano e non in arabo? Perché il mio paese, che si chiama Iran, siamo persiani e in Iran tutte gente parlano persiano. Se non studi arabo, non vai nell'università o scuola privata di lingua araba come lingua inglese o altre lingue, non impari. E io mai non avevo voglia, non è che non avevo voglia, non c'entra niente che vado a imparare arabo. Per quello non ho imparato arabo e canto con mio madrelingua. Iran è un paese musulmano, diciamo, per forza. Non è che tutti gli iraniani credono questo regime che c'è, no. Tanti iraniani sono contro questo regime islamico, però tutti gli iraniani sono irani, sono persiani e parlano persiano. E non è che ogni paese che c'è regime islamico deve parlare arabo, no. Ci sono tanti paesi musulmani che non parlano arabo, hanno loro lingua, come Iran che ha lingua antica e sempre persiano. E qual è la condizione delle donne che vogliono fare musica nel tuo paese di nascita, quindi in Iran? Le donne possono imparare la musica come strumenti per suonare, sì, però per cantare c'è un legge islamici, diciamo, come dicono loro, perché hanno fatto legge che dicono sono legge di Islam, che non è vero in realtà. Comunque, dicono che le donne non possono cantare in pubblico, le donne possono cantare solo per le donne o in coro, da solo non possono cantare, perché la donna se canta da sola è erotico, cose così. E poi le donne non possono cantare. In Iran noi non abbiamo cantante donna che canta tranquillamente quello che vuole e da sola. O deve cantare, diciamo, underground, che non può fare CD, album, concerti, niente. O deve uscire da Iran o deve cantare in gruppi core. Se no, impossibile. أقدر أشيل لا مش ممكن لا ما أقدر أشيل لا مش ممكن يا عزيزة اطلعي لا ما أقدر أشيل حبيبتي شرفي لا ما أقدر أشيل وطلعت يا ناس مغلوبة يا ناس تريحي لا ما اقدر شي حبيبتي تلحلحي لا ما اقدر شي وسمعت يا ناس معلومة يا ناس لا ما اقدر شي حبيبتي قربي لا ما اقدر شي فرشنا يا ناس مغلوبة يا ناس يا عزيزة اقلعي لا ما اقدر شي حبيبتي تجرأي لا مش ممكن صلحنا يا ناس مغلوبة يا ناس افهم يا سيدي مش قادرة وطبعا تقنعني مش ورد ايه يا عزيزة ايه اللي انتي عاملة ده يا راجل يا هو شايب عليك اختشي ونوع لا ما اقدر شي لا مش ممكن يا عزيزة اخلعي لا ما اقدر شي حبيبتي تشخلعي لا مش ممكن يا لا ما قدرش وجيها يا ناس غالبنا Ed eccoci ritornati sui 103.1, le 13.20. Prima di continuare faccio un'anticipazione, una breve anticipazione. Abbiamo appena ascoltato il pezzo elettronico di Azza, che è la colonna sonora del film Bar Bar, ma di questo ne parleremo fra pochissimo. Adesso continuiamo a parlare della musica di Chimia. Infatti la sua musica non è tanto un dimostrare il proprio talento, ma ha un valore sociale, cioè lei vuole portare un messaggio al pubblico, che è quello proprio della libertà e dell'indipendenza delle donne, cioè della condizione delle donne in Iran che vogliono fare musica. E adesso infatti lei ha anche partecipato a The Voice, tra l'altro The Voice Italia, portando una canzone sempre in persiano. Sì, infatti lei ha partecipato al talent non tanto per ottenere delle premiazioni, ma proprio per trasmettere questo messaggio. E lei nella terza parte dell'intervista lo ribadisce. Sì. Esatto, ce l'ha raccontato. E inoltre ci ha raccontato anche di una sua matura scelta artistica, ovvero quella per l'appunto di cantare in persiano, non in inglese e non in arabo. Lei ci ha spiegato che in Iran l'arabo viene insegnato come seconda lingua ufficiale, nonostante la lingua originale che parla la popolazione sia il persiano, ma lei da piccola non ha avuto la possibilità di frequentare una scuola nella quale fosse insegnato l'arabo, sia da bambina che da adolescente, perciò ha deciso di cantare in persiano. E ora ascoltiamo l'ultima parte della sua intervista, dove ci racconta di come lei ha voluto mandare un messaggio di liberazione attraverso la sua musica. La tua musica è anche un simbolo di ribellione a questa tradizione, no? Io sempre canto di libertà, poesie che scelgo, sempre ce l'hanno queste cose che stanno dicendo: devi liberarti, devi vivere come vuoi, devi fare quello che vuoi. Scelgo in poesie molto spirituale, di Hafez, di Maulana, che sempre stanno dicendo che l'uomo deve essere libero come vuole. Hai partecipato al Bologna Jazz Festival. In quale occasione ti sei esibita? Dove? In Bologna Jazz Festival abbiamo suonato in Binario 69. E sappiamo anche che sei stata a The Voice. Ah sì, The Voice anche qualche anno fa mi hanno chiamato da Televisione Italia. Sono andato lì per fare questo concorso e soprattutto io sono andato per parlare, per lanciare il mio messaggio, sai, sono andato per non sono una che va palenze e cose così, non credo tanto, sono entrato per parlare di donne in Iran, di nostri problemi. E poi ero incinta, non ho continuato. Per quanto riguarda dei progetti futuri, hai deciso di restare in Italia oppure ti trasferirai? In realtà io amo Italia, mi piace tanto Italia e veramente voglio vivere ancora qua. Tanto decisi in gruppo, sono tutti ragazzi di Italia, di conservatorio qua. Sì, noi amo Italia, voglio vivere ancora qua. Noi ti ringraziamo davvero tantissimo. No woman, no cry, boom, boom, boom. No woman, no cry, I'm telling you now. No woman, no cry, boom, boom, boom. No woman, no cry. 'Cause I remember when we used to sell in the government yard in French Town. Observing the hypocrites Stiamo arrivando alla conclusione della seconda puntata della Rivincita delle Bionde, Carlotta, di già. Ma finalmente così andiamo a mangiare. Ma no, ma cosa dici? No, no, non l'ascoltate, noi vorremmo rimanere con voi tutto il resto della giornata, sempre con voi su Radio Fujiko 103.1. Ebbene, ringraziamo Kimia non soltanto per la sua grandissima disponibilità e gentilezza, ma soprattutto per il suo coraggio ed ostinazione. Sì, perché ci fa da esempio, davvero. È davvero un esempio e lei ha ottenuto davvero una vera e propria rivincita. E quindi le auguriamo tutto il bene possibile. Adesso è arrivato il tanto atteso momento della puntata, ovvero la chicca del giorno. Poco fa vi avevamo anticipato il pezzo di Yas Azza, che infatti fa da colonna sonora del film Bar Bahar. Protagoniste sono tre ragazze palestinesi che vanno a vivere a Tel Aviv in Israele. Una scelta significativa perché nel paese d'origine a loro veniva imposto un certo modo di vivere, per loro considerato anormale, in cui il posto delle donne era semplicemente quello della casa, della casalinga. Bene, loro con questo trasferimento rompono questo schema, cercando di rivendicare la propria libertà e cercando una propria identità, no? Quindi vi consigliamo di vedere questo film perché è bellissimo e tra l'altro rimaniamo sempre in tema di emancipazione femminile, no? Sia con la musica che anche personale. Esatto, e con Bar Bahar, che tra l'altro è un film anche molto emozionante secondo me. Sì, toccante tantissimo. Esatto, e ci salutiamo, però vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 13, dalle 13 alle 13.30, per la terza puntata della Rivincita delle Bionde. Sempre sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Restate in ascolto, alla settimana prossima, ciao!